2007, qui c'è zio P. Questa macchina non ha mai vissuto la sua vita sul serio. È una vita a sangue freddo, yo. Molte volte capita che non ti fai capire, o sono le persone che non ti stanno a sentire. Lo capisci da piccolo e inizi a pensare a quando sarai grande cosa dovrei fare. Poi ogni compare scompare, è un difetto, magari ricompare quando ha bisogno di affetto. Nella vivi a sangue freddo, se no come faresti? Non comprimi ed esprimi ciò che pensi dentro versi. Siamo persi, dispersi in un mare senza barca. Vogliono fare i king con una società antimonarca. Non è la moda che conto che sparca, ma ti selezionano manco ci fosse un'altra arca. Ogni torto sbaglio non è servito a fare leader. Ho applicato fazzoletti per asciugarmi ferite in corpo, cuore e anima e anche nella mente, ma sono cicatrici che rimarranno perennemente. Non mi fido, te lo dico, amico cerca un nido. A sangue freddo giro, a sangue freddo. Davanti a un video preferisce il suicidio. Seguo la mia strada, sarà quella più cara, o giusta o no, ma sbagliando si impara. Finché la barca va, saremo tutti a bordo. E quando l'amore viene il campanello sarà rotto. Io me ne porto, seguo la mia indole, girando i finti discorsi come trottole. C'è chi continua a spingerla e ingoia frottole come pillole, confondendo le pallette da pallottole. Ma le chiacchiere le mangio a carnevale, ma anche quelle vere le digerisco male. Le vado a vomitare, ma uno stomaco di ferro. Sangue freddo!